questo fausto giorno in cui vengo battuto delle nere di suore il fiero orgoglio. Io non cerco gli applausi e non decoro, basta che le superbe di Andromeda chi vive la difesa il mio amor pianga delose, disdegnose e confuse, mirino il seno a tetti cangiato in duro stoglio il ministro crudel della vendetta. E Pio dunque sospetta, scioglianzi questi lacci della bella innocente, e ravviso ogni ninfa, ogni pastore di Perseo fortunato, il braccio invitto l'amoroso cuore. Signor, ira del fato, fiaccosti col valor della tua destra, opportuno soccorso al comune dolor. Silenzio impose, io non crede già più su questi campi lieto condur la greggia, né rallegrar col canto il regio armento. Or tua merce mi sembra men grave il peso di canuta edade, e parmi che risorga in me vivace la già perduta e sospirata pace. Il Thank you. tratto morti, io dovrei al tuo amor lasso il mecide, ma sapi per se o sapi che di mia libertà questi che il cielo mi lascia tu mercè, miseria avanzi, rendono la mia vita dello stesso morir meno gradita. Nulla dunque tu apprezzi del mio provido amor, le prove e il merito, gravitudine e vieta, e che fia mai che tenda nuove insidie alla mia pace, una fiamma vivace che d'alleso gentil nel cor m'accese, più misera mi fa di quel che fu spietata. Fagna lui che immerso in mille oggetti nulla cura il tuo amore, o non lo sa, thank you.

Fora il giuramento!

thank you. amica sorte, tanto la affligge tanto, che se ben tu non vedi quest'occhio lacrimar, ne scopri il pianto. Questo degno d'or, pietà che dici, tanto per me crudeli non saresti. Già nemico d'amor, amar non voglio, Androne da lo sai. Ama che giusto il tuo Perseo fedel, che bello merta io porto. Almeno non partire sì presto, udi, pria che tu parta. Quando canto mi sei, quanto mi piaci. Se da me speri amore, la speranza è un delirio. Che ronno in questo viso, l'amor mio tu disprezzi. Bella, con tal vigore, nella mia libertà servo il piacere. Piacete troppo e fiero a quest'almo d'aniso che ti vive. Ma piacer che mi giova. A dirmi sì tu, di sdegno e di furore. Già te lo dissi ancor, non voglio amore. Ah,